Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Angelica si alzò. Era domenica. La bambina era da 2 giorni ospite di un'amica. Oreste era orvieto. Essa camminò scalza per la casa aprendo le imposte. Era una mattina soleggiata e umida. Dalla piccola piazza sotto la sua casa saliva odore di pasticceria. Trovò in cucina le sue ciabatte di spugna verde e le infilò ai piedi. Trovò sulla macchina da scrivere in camera da pranzo la sua cuffia di gomma bianca per fare la doccia, e se la infilò cacciandovi dentro tutti i capelli. Dopo la doccia infilò un accappatoio rosso, umido, perché Oreste l'aveva usato la sera. Si fece il tè. Sedette in cucina bevendo il tè e leggendo il giornale del giorno prima. Si tirò via la cuffia e di nuovo i capelli le ricaddero sulle spalle. Andò a vestirsi. Cercò nel cassetto delle calze maglie, ma tutte avevano smagliature. Ne trovò infine un paio senza smagliature, ma con un buco nel pollice. Infilò un paio di stivali. Mentre si allacciava gli stivali, pensò che non amava più Oreste. L'idea che stesse a Orvieto per tutto quel giorno le dava un senso profondo di liberazione. Anche lui non l'amava più. Lei pensava che doveva essere innamorato di una ragazza che faceva la pagina della donna al suo giornale. Poi pensò che forse niente di questo che aveva pensato era vero. Infilò il suo scamiciato blu e grattò con l'unghia una macchia bianca sulla gonna. Era una macchia di latte e farina. La sera prima avevano fatto le frittelle di mele, lei con Oreste e con i Bettoia. Mentre mangiavano le frittelle, aveva posato la testa sulla spalla di Oreste e lui l'aveva tenuta abbracciata per qualche istante. Poi di colpo aveva scostato la sua testa e aveva detto che aveva caldo. Si era levato la giacca. L'aveva rimproverata perché teneva troppo alto il termosifone. Anche i Bettoia avevano caldo. Le frittelle erano un po' troppo imbevute d'olio. Si radunò i capelli davanti allo specchio e guardò nello specchio la sua faccia lunga, pallida e seria. Suonarono alla porta. Era Viola. Aveva un cappottino nuovo nero guarnito di leopardo. In testa aveva un berretto di leopardo. Aveva i neri capelli sparsi sulle spalle, lisci e rilucenti. Gli occhi erano castani, tinti di azzurro. Il naso era grazioso, piccolo. La bocca era piccola, col labbro superiore sporgente sui denti grossi e candidi. Si tolse il cappotto e lo distese con cura sul baule che stava nell'ingresso. Portava sotto il cappotto una maglia rossa scollata in tondo. Angelica le versò il tè. Viola chiuse le mani intorno alla tazza perché aveva freddo. Chiese a Angelica perché teneva così basso il termosifone. Era venuta per dirle che non trovava giusto il testamento. Soprattutto non trovava giusto che il padre avesse lasciato a Michele quella torre. Lei e Elio pensavano che sarebbe stato bellissimo avere la torre loro sorelle e andarci d'estate. Michele di quella torre non se ne faceva niente. Angelica disse che la torre non l'aveva vista, ma sapeva che per renderla abitabile bisognava spenderci molti soldi e lei non ne aveva. E d'altronde la torre era di Michele. «Cretina», disse Viola, «per avere dei soldi basta vendere un pezzo di quelle terre a Spoleto». Chiese un biscotto, essendo uscita senza far colazione. Angelica non aveva biscotti, ma aveva dei grissini spezzati in un sacchetto di cellofan. Viola si mise a mangiare i grissini, tuffandoli nel tè. Pensava di essere incinta, disse. Aveva un ritardo di 10 giorni. Aveva al mattino una strana sensazione di languore. Non si sente niente i primi giorni, disse Angelica. Domani farò la prova della coniglia, disse Viola. Aveva calcolato che il bambino sarebbe nato i primi di agosto. Un mese pessimo per averlo, disse. Morirò dal caldo, sarà tremendo. Fra 2 anni avrebbero potuto trovarsi tutti nella torre. Elio avrebbe potuto raccogliere le cozze su quegli scogli. Lui amava tanto raccogliere le cozze. Avrebbero mangiato delle meravigliose zuppe di cozze. Avrebbero avuto un fornello per cucinare le bistecche sulla brace all'aperto. Oreste e Elio avrebbero fatto la pesca subacquea. Allora, invece delle bistecche, avrebbero cucinato delle cernie. Oreste non ha mai fatto la pesca subacquea, disse Angelica. Suonò il telefono. Angelica andò al telefono. Era Osvaldo. Le disse che Ray era stato ferito alla testa durante una dimostrazione. Era al policlinico. Le disse di venire là. Angelica si infilò il pellicciotto. Disse a Viola che l'accompagnasse con la sua macchina, perché lei era senza macchina, l'aveva presa a veste. Sulle scale Viola le disse che non si sentiva di accompagnarla. Non si sentiva bene, si sentiva stanca. Angelica disse che avrebbe preso un tassì. Mentre saliva sul tassì, Viola cambiò idea e le disse che l'avrebbe portata. Il tassista gettò bestemmie. In macchina Viola ricominciò a parlare della torre. Su in alto avrebbero fatto fare un bel vedere e lì avrebbe messo sempre il bambino nella sua carrozzina. Lassù ci sarebbe stato un meraviglioso volume d'aria. «Come mai tutto questo volume d'aria?» disse Angelica. «Io so che all'isola del Giglio fa caldo. Penso che su quel belvedere batterà un gran sole e il tuo bambino arrostirà vivo. Metteremo dei tendoni», disse Viola. «Poi metteremo in tutte le stanze dei pavimenti di gres. Sono freschi, sono semplici da lavare e più forti delle maioliche». Angelica disse che le sembrava di ricordare che il padre aveva già scelto e comperato quintali di maioliche. E comunque la torre era di Michele. «Michele non ci andrà mai», disse Viola. «Non si sposerà mai, non avrà mai una famiglia sua, Michele. È un omosessuale». «Te lo sogni», disse Angelica. «È un omosessuale», disse Viola. «Non l'avevi capito che lui e Osvaldo erano amanti?» «Te lo sogni», disse Angelica. Mentre diceva «te lo sogni», si accorse che invece l'aveva pensato sempre. «Michele aveva qui una ragazza e il bambino di questa ragazza probabilmente è suo», disse. «Perché è ambidestro», disse Viola. «Osvaldo ha una figlia», disse Angelica, «e anche lui è ambidestro». «Ambidestro», disse Viola. «Povero Michele», disse Viola. «Quando penso a Michele ho il cuore stretto». «Non mi fa nessuna pena, Michele», disse Angelica. «Io quando penso a lui divento allegra». Aveva invece il cuore stretto e una sensazione di sfacelo. «Michele ora è con una ragazza a Leeds», disse. «Lo so», disse Viola. «Non trova mai pace. Gira da un posto all'altro, prova una cosa, poi ne prova un'altra. L'ha rovinato nostro padre. Lo adorava e lo viziava. L'ha tolto a noi e alla mamma. Lo trascurava. Lo adorava e lo trascurava. Lo lasciava sempre solo in casa con delle vecchie cuoche. È così che è diventato omosessuale, Michele. Per solitudine. Aveva nostalgia della mamma e di noi sorelle. E allora si diventa omosessuali quando si pensa alle donne come a una cosa desiderata e assente. Me l'ha detto il mio analista. Lo sai che vado da un analista». «Lo so», disse Angelica. «Non riuscivo mai a dormire», disse Viola. «Avevo un senso di apprensione. Da quando vado dall'analista dormo di più». «Comunque non è omosessuale, Michele», disse Angelica. «Non è ambidestro, è normale. E comunque, anche se fosse ambidestro, non vedo perché dovremmo portargli via la sua torre». Viola disse che sarebbe entrata anche lei al policlinico, un istante. Trovarono Osvaldo, Sonia e Ada nella sala d'aspetto del pronto soccorso. Ada, Osvaldo l'aveva fatta venire perché aveva al policlinico un medico amico. Sonia teneva sul braccio la giacca a vento di Ray. Era vicino a lui quando l'avevano buttato per terra. Lei conosceva quelli che l'avevano buttato. Erano dei fascisti. Avevano catene. Ada vide passare il medico suo amico e lo rincorse. Questo medico assicurò che Ray non aveva niente di serio e poteva tornare a casa. Viola e Ada presero qualcosa al bar. Ada ordinò un caffè e Viola una china calda. Viola disse che se ne andava perché sentiva un tremito alle ginocchia. Si era emozionata e poi gli ospedali le facevano impressione. Aveva visto un infermiere passare con un catino di garze insanguinate. Aveva paura di abortire. Ada le chiese di quanti mesi era. «Un mese», disse Viola. Ada disse che lei, al settimo mese, aveva vegliato notti e notti in un ospedale una sua donna di servizio con una lesione al peritoneo. Ray venne fuori dal pronto soccorso con la testa fasciata. Ada e Viola se n'erano andate. Sonia e Angelica salirono con Ray nella 500 di Osvaldo. Andarono a casa di Osvaldo. Ray si distese sul divano del soggiorno. Era un grande soggiorno, con divani e poltrone dalle fodere pestate e logore. Osvaldo portò una bottiglia di Lambrusco. Angelica beve un bicchiere di Lambrusco e si accucciò in una poltrona con la testa posata sul bracciolo. Vedeva Osvaldo e Sonia andare e venire dalla cucina. Vedeva la grande schiena di Osvaldo nel golf di cammello e la sua testa larga e quadrata dai radi capelli biondi. Pensò che era contenta di essere lì con Osvaldo, Sonia e Ray, e che era contenta che Viola e Ada se ne fossero andate. Pensò che la vita era dolce. Pensò che Osvaldo era forse, come diceva Viola, l'amante di Michele, ma questo le sembrò difficile da immaginare e comunque indifferente. Ray si era addormentato tirandosi sulla testa un plaid. Osvaldo portò una zuppiera e la posò sul tavolino di vetro davanti al divano. Sonia portò scodelle. Ray si svegliò e mangiarono spaghetti conditi con olio, aglio e peperoncino. Passarono il pomeriggio fumando, ascoltando dischi, bevendo Lambrusco e buttando là ogni tanto qualche parola. Quando fu buio, Ray ridiscese nel suo scantinato e Sonia rimase con lui. Angelica doveva ritornare a casa sua e Osvaldo la accompagnò. Non gli andava di stare solo, disse. Avevano passato un pomeriggio così bello, senza fare niente, loro quattro insieme. A casa, Angelica alla finestra aspettò il ritorno della bambina. Osvaldo si era messo a leggere un libro che aveva trovato sulla macchina da scrivere. Era 10 giorni che sconvolsero il mondo. Angelica vide la bambina saltare giù dalla macchina. Salutò con un cenno della mano gli amici che l'avevano ospitata. La bambina era allegra e stanca. Era andata anzi e aveva giocato nella pineta. Aveva già cenato al ristorante. Angelica la guardò mentre si svestiva e l'aiutò ad abbottonarsi il pigiama. Spense la luce e baciò le ciocche bionde che uscivano fuori dalle coperte. Andò in cucina, prese un coltello e un giornale e raschiò via il fango dagli scarponcini della bambina. Mise a scaldare dei piselli surgelati e vi tagliuzzò sopra del prosciutto avanzato. Oreste sarebbe tornato tardi. Sedette in poltrona vicino a Osvaldo, si sfilò gli stivali e osservò il buco nella sua calza, diventato molto più grande. Osvaldo sempre leggeva. Essa posò la testa sul bracciolo e si addormentò. Sognò la parola ambidestro. Nel suo sogno c'era solo questa parola e delle maioliche sparpagliate in una pineta. La svegliò il telefono. Era Elio. La pregava di venire da loro, se le era possibile. Viola aveva perdite di sangue. Era lagrime e voleva qualcuno. Elio disse che era stato imbecille trascinarla all'ospedale. Si era emozionata e aveva avuto un aborto. «Forse non era un aborto», disse Angelica. «Forse erano semplici mestruazioni». «Era probabilmente un aborto», disse Elio. «E Viola si disperava perché aveva tanto desiderato un bambino». Angelica si riallacciò gli stivali e disse a Osvaldo di rimanere lì fino a quando non arrivava Oreste. Uscì e andò da Viola. Leeds, 15 febbraio 1971. Cara Angelica, ti scrivo una cosa che forse ti lascerà stupita. Mi sposo. Ti prego di andare all'agenzia di Piazza San Silvestro e richiedere i documenti necessari. Non so quali documenti ci vogliono. Mi sposo appena avrò i documenti. Sposo una ragazza che ho conosciuto a Leeds. Veramente non è una ragazza perché è divorziata con due bambini. È americana, insegna fisica nucleare. I bambini sono carini. Io amo i bambini. Non quelli molto piccoli, ma quelli che hanno 6 o 7 anni come questi qua. Li trovo molto divertenti. Non ti sto a raccontare com'è questa ragazza che sposo. Ha 30 anni. Non è bella. Ha gli occhiali. È molto intelligente. Io amo l'intelligenza. Sembra che riuscirò ad avere un lavoro. Cercano un insegnante d'italiano in un collegio di ragazze, sempre qui a Leeds. Sinora ho lavato i piatti in un altro collegio dove insegnava la ragazza con cui ero venuto, Josephine. Potete scrivermi ancora presso la madre di Josephine. Non ho ancora un appartamento, ma lo cerco. Aileen, questa ragazza che sposo, vive con i suoi genitori e i bambini e la casa è piccola. Non c'è posto per me. Ho una stanza in una pensione di cui non vi do l'indirizzo perché cambierò. Forse scriverò anche alla mamma, però intanto comincia a dirglielo tu. Diglielo lentamente, perché sono di quelle notizie che la sconvolgono. Dille di stare tranquilla, perché ho riflettuto. Forse verremo in Italia nelle vacanze di Pasqua, e così potrete conoscere Aileen e i bambini. Ti abbraccio. Velocemente mandami i documenti. Michele. Leeds, 15 febbraio 1971. Cara Mara, ti faccio sapere che mi sposo. La donna che io sposo è straordinaria. È la donna più intelligente che ho mai incontrato. Scrivimi. Le tue lettere mi divertono. Le ho lette a Aileen. Aileen è mia moglie, cioè quella che sarà mia moglie fra 20 giorni appena avrò i documenti. Ci siamo molto divertiti col tuo pellicano. Ti spedisco un pacchetto con 12 tutine di spugna per il bambino. Aileen ha voluto che te le spedissi. Erano dei suoi bambini e le ha conservate. Dice che sono di un'estrema comodità, si lavano in lavatrice. È vero che tu forse non hai la lavatrice. Anche tu conservale, perché posso richiedertele indietro nel caso che io e Aileen abbiamo dei figli. Aileen mi ha detto di dirti che non devi buttarle via. Auguri per il pellicano. Michele. Leeds, 15 febbraio 1971. Caro Osvaldo, scusami se non ti ho mai scritto da quando sono partito. Le brevi parole che ci siamo scambiate al telefono quando mi hai chiamato per dirmi che era morto mio padre e quando c'era mia madre da te sono poca cosa e mi rendo conto che avrei dovuto scriverti e darti notizie dettagliate su di me. Però tu sai che non è nella mia natura dare di me notizie molto dettagliate. Ho saputo che frequenti molto i miei familiari, passi le serate con mia madre, vedi le mie sorelle, questo mi fa molto piacere. Ti comunico una cosa che forse ti stupirà. Ho deciso di sposarmi. La ragazza che io sposo si chiama Aileen Robson. È divorziata, ha 2 figli, non è bella, anzi in certi momenti è quasi bruttissima, molto, molto magra, coperta di lentiggini, con degli enormi occhiali come Ada. Però è più brutta di Ada. Ma è forse quello che si dice un tipo. È molto intelligente. La sua intelligenza mi affascina e mi rassicura. Forse perché io non sono molto intelligente, ma solo questo sensibile. Perciò so cos'è l'intelligenza e so cosa mi è mancato. Se ho scritto acuto e sensibile, è perché ricordo che tu una volta mi hai definito così. Non potrei vivere con una donna stupida. Non sono molto intelligente, ma adoro e venero l'intelligenza. Nel mio scantinato, credo in fondo a un cassetto del Comò, c'è una sciarpa. È una bellissima sciarpa di vero cashmere, bianca a strisce celesti. Me l'aveva regalata mio padre. Vorrei che tu andassi a cercarla e la portassi. Sarai contento di sapere che hai al collo quella sciarpa quando cammini per il lungo Tevere uscendo dal tuo botteghino. Non ho dimenticato le nostre lunghe passeggiate sul lungo Tevere, avanti e indietro, col sole che tramontava. Michele.